Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti all'ultima puntata di questa stagione di Ludico Forum. Per ascoltarci ovviamente www.runtimeradio.it, ma questo sicuramente lo sapete se ci state ascoltando. Per interagire con noi, telegram.me/dirette runtime, dove potete poi tra l'altro rimanere anche durante il resto delle giornate, nei momenti in cui non siamo live, perché potete poi ovviamente continuare a interagire sia con il nostro pubblico che con gli autori dei nostri podcast, delle nostre live. Ringrazio ovviamente Walter Sbano per la diretta delle orazioni della sera, che c'è stata alle 20 alle 20:30, quindi ci ha lasciato via libera e siamo finalmente live anche noi con appunto questa nuova puntata di Ludico Forum. Puntata particolare perché parleremo di un tema che negli anni, e sono tanti gli anni, lo sapete, non abbiamo mai trattato, se non indirettamente, forse in maniera un po' collaterale, diciamo de striscio, come dicono quelli che sanno. Nel frattempo do il benvenuto al nostro storico direttamente da archeologia informatica, Carlo Sant'Agostino. Buonasera a tutti gli ascoltatori, eccovi qua. Come se fa sei... piacere essere tornato in Ludico Forum una volta ogni tanto. Ogni tanto, tanto tu vieni in Ludico Forum per dire no. Giusto? No. Allora questa cosa era così, no? Va bene. Ti ringrazio, sempre un piacere. Invece sia da Ludico Forum, ma soprattutto da OGM, abbiamo anche Carmine Puccio Console. Passavo di qua. Passavi da queste parti. Visto che si parlava di libri. Non si dice console. quando faccio ludico, sì. Sì. Ah, okay. In realtà questa cosa è andata avanti per 10 anni. E oramai gli è rimasta, insomma, così. Gli è rimasta sta cosa che lui è Carmine Puccio Console. Anzi, console, perché console sarebbe quello giusto. Quello di AGM. Parleremo di Libri Game in questo episodio, e lo facciamo, tra l'altro dobbiamo anche aggiungere un'altra cosa, con un ospite speciale, Roberto Bucciarelli. Salve a tutti. Ciao, benvenuto, perché Roberto è qui con noi, anche detto Bob, perché Bob, Roberto è autore di audiolibri, di Libri Game. Vabbè, magari possiamo fare, oh ragazzi, è l'invenzione del secolo. Abbiamo fatto uno spoiler che mi dà un impegno da oggi. Importante. Non era previsto, ma adesso. Esatto, abbiamo trovato il crocevia, il Libro Game audiolibro, sarebbe fantastico. L'audiolibro Game. Vabbè, comunque Roberto è autore di audiolibri, con lui ovviamente parleremo Libri Game, scusate ragazzi, ormai è diventato ufficiale. No, e sono le polpette. Sì, mentre parlavamo Amazon l'ha brevettato. No, bastardi, ci hanno fottuto. No, che sono le polpette di stasera. Comunque, autore di Libri Game, appunto, non parleremo soltanto delle sue produzioni, ne parleremo chiaramente, ci racconterà un po', insomma, è anche giusto dare spazio a Roberto e le sue produzioni passate, presenti e probabilmente future, ma appunto insieme a lui poi cercheremo di dipanare poi tutto il resto del discorso. Ringrazio nello specifico non soltanto Roberto di essere qui con noi, ma ovviamente Leonardo Vargion Tomassetti, perché tramite Il Mattino Allora in podcast, e vi ricordo domattina dalle 7 alle 8 finiremo finalmente la grande storia dell'elfa ubriacone. Si presume ultima puntata, cioè, perché ho fatto i calcoli, se tutto va bene dovrebbe essere l'ultima, dipende poi dalle strade che prenderà. Esatto, quindi ringrazio insomma Leo per averci che lui ha dedicato appunto il mercoledì della sua trasmissione a giocare dei Libri Game, e ci ha permesso appunto di conoscere Roberto e le sue opere, e quindi poi creare anche questo episodio, perché poi ne abbiamo preso insomma spunto da questa cosa. Prima di iniziare, ovviamente vi ricordo che giovedì sera, caro Carlo Sant'Agostino, ci sarà lo speciale di Natale, come si faceva su Dottor Uno, lo speciale di Natale di Quando Eravamo Futuro. giusto? Lo speciale di quando eravamo futuro al Natale, a di Natale. Quando eravamo Natale al futuro, esatto. Qualcosa del oppure genere. Quando è nel passato. Nel passato guardavamo il futuro a Natale, anche una cosa del genere. A Natale. Comunque, alle 21.30, giovedì sera, vi ricordo, speciale di Natale, sarà una puntata carina, diversa un po' da tutte le altre, ma comunque poi insomma cercheremo sempre di essere in tema, in bolla, perché chiaramente parleremo sempre degli anni 70 e 80. Mentre che a Natale, il 25 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, io e Michela saremo live con tutti i membri di Runtime Radio che vorranno ovviamente poi partecipare, dire la loro, fare una telefonata, emettere suoni gutturali e organici. E invece la notte di Capodanno, vi ricordo, il 31 dicembre, a partire dalle ore 22.30 circa, saremo live per accompagnarvi al Capodanno, così come è stato anche per lo scorso anno. Come sapete, dal periodo post-Covid in poi, Runtime ha preso l'impegno di fare compagnia alla gente, da lì in poi in realtà questo impegno è rimasto costante. E sapete che noi facciamo più di 10 ore di live alla settimana, che per una web radio non professionale chiaramente è insomma qualcosa di abbastanza importante come tipo di palinsesto, e più durante tutto il resto della giornata vanno in onda i nostri podcast storici, quindi 11 anni di tradizione insomma da questo punto di vista. E quindi se vi capita, andate su runtimeradio.it e cliccate sul pulsante anch'io e fate il vostro contributo, che ovviamente sapete che è assolutamente insomma volontario, però se non lo fate siete degli stronzi, insomma, diciamo così. No, scherzi a parte, ragazzi, lo sapete, insomma, la piattaforma ha dei costi, noi lo facciamo per passione, lo facciamo, però insomma, se qualcuno poi ogni tanto dà una mano. E ultimamente insomma devo dire che poi al Ludico Forum faremo dei ringraziamenti, perché insomma sono arrivate delle cose. Voi sapete che potete fare un vostro contributo una tantum su PayPal, oppure contribuire ricorrentemente insomma su Patreon, a parte i nostri ricorrentisti insomma tradizionali che ci sono oramai da un po' di tempo. Sono arrivate anche delle donazioni una tantum che ci fanno piacere, e poi ringrazieremo. Allora Carlo, io parto un attimo da te, perché parliamo insomma di questa storia dei libri game. Innanzitutto, tu che esperienza c'hai con i libri game? Me lo sono sempre chiesto, non è vero, non me lo so mai chiesto, però adesso me lo chiedo. Non me lo sono mai chiesto, però adesso mi viene in mente di chiedertelo. Allora io devo iniziare con no, giusto? No? Ah, no, però, prima no. Di tutto no. No, no, no. Vabbè, vabbè, dal punto di vista dell'esperienza personale penso sia molto comune in quanto italiano e in quanto vecchio, quindi ho 50 anni e quindi più o meno tutti quelli della mia età che più o meno sono stati nerd negli anni della loro gioventù, più o meno tutti hanno iniziato con la classica linea dei libri game editi a partire dall'85 qua in Italia, di cui la più famosa è stata la linea di Lupo Solitario, Lone Wolf, che è uscita nell'84 in Inghilterra e nell'85 qua da noi in Italia. Quindi questo per quanto riguarda la mia esperienza con i libri game. Ho iniziato da lì, mi sono piaciuti come piacevano a tanti diciamo compagni d'avventura di quel periodo, di gente che come me magari arrivava dai giochi di ruolo, quindi dai giochi di ruolo da tavolo, e giocava magari a questo tipo di giochi. La lettura dei libri game era abbastanza affine a questa tipologia di divertimento, e quindi come tanti altri miei coetanei mi sono appassionato un pochino e per un po' di anni ho comprato e letto libri game che in quegli anni vendevano abbastanza bene anche in Italia. Certo, non era una popolarità come magari quella di oggi o di Erda, che è sicuramente superiore, però non era neanche bassa. Erano considerati alcuni titoli, soprattutto della linea di Lupo Solitario in Italia, erano considerati dei best seller all'epoca nelle librerie, avevano un posto d'onore comunque a livello all'interno delle librerie, e venivano abbastanza venduti. Però se devo parlare della storia dei libri game, magari faccio un accenno. Ce l'abbiamo 6 o 7 ore, Simone? No, 6 o 7 ore no. Non ce l'abbiamo, però aspetta, aspetta, no. Prima di iniziare con la storia, no, prima di tutto volevo sapere appunto qual è il tuo approccio per fare questo primo giro un attimo da parte di tutti. Però tra l'altro io mi ricordo, perché io e te siamo più o meno coetanei, insomma, tu c'hai penso un paio d'anni più di me, quindi sei più vecchio, giustamente, rimarchiamola questa cosa che è importante. Io ricordo che la Mondadori, dove andavo io da ragazzetto, c'era un'intera sezione della, dedicata ai libri game, quindi insomma comunque avevano un posto d'onore, avevano una loro rilevanza. E tra l'altro, se proprio devo dire, il mio percorso invece è stato inverso, cioè ho iniziato dal libro game, poi c'era un libro game proprio di Dungeons and Dragons, se non sbaglio, che era simile, che era l'evoluzione del libro game, ma non era il gioco di ruolo così come sarebbe dovuto essere, quindi in realtà era questa sorta di ibrido. E io infatti ho iniziato dai libri game e poi mi sono avvicinato ai giochi di ruolo, quindi ho fatto un percorso un po' diverso. E devo dire che Lupo Solitario, sì, tutta la saga e tutto quanto, infatti l'ho ceduta recentemente a Walter Sbano, che ci sta ascoltando adesso nella chat, però per me una delle più belle, secondo me, era quella di Oberon, perché era più meno bambinesca sotto certi aspetti, nel senso c'erano delle situazioni sì, considera che anche Lupo Solitario comunque era basato sulla metodologia di approccio dalla Dungeons and Dragons, comunque come tipologia di libro game, coi dadi, col combattimento, cioè tutta quella serie lì pubblicata dalla sviluppata da Joe Denver in Inghilterra e fu pubblicata in Italia, che è stata quella che ha introdotto un po' il genere in Italia, era sulla tipologia comunque fighting fantasy, quindi lui era un giocatore di Dungeons and Dragons, e quindi tutte le serie collegate poi erano, poi dopo c'erano state, ne sono usciti poi ci arriviamo anche perché in effetti ce ne sono veramente di tutti i tipi. E Puccio invece come ti sei insinuato? No, io sono partito in maniera un po' diversa, in realtà. A me sono capitati per le mani i primi libri game a tema fantascientifico, prevalentemente. Quindi molto dopo sono No, in realtà era a metà degli anni 90. E 10 anni dopo. Io sono del 78, ragazzi. Più o meno. Mi ricordo che ero a fine delle elementari, più o meno, forse, prima media. In realtà quelli che capitarono a me tra le mani, che poi non sono riuscito più a ritrovare, li ho anche cercati dopo che abbiamo stabilito il tema della puntata, erano a tema Asimov. In pratica erano ambientati durante il ciclo della fondazione. Sì. Interpretavi dei personaggi che erano collaterali alla trama principale. La cosa che mi turbava parecchio è che generalmente nei romanzi di Asimov muore poca gente, per non dire nessuno. In realtà in questi romanzi morire era abbastanza facile, o finire in situazioni completamente prive di via d'uscita. Poi stavo facendo mente locale, prima c'era una morte che potevi fare nel primo romanzo, che addirittura viene organizzata da Iris Eldon, perché se tu resti vivo il piano della fondazione andrà a rotoli, quindi Iris Eldon architetta la tua morte, che è una roba veramente che chi si lamenta della serie di Apple TV della fondazione avrebbe dovuto leggere quella roba, che a me è piaciuta tra l'altro, devo dire la verità. Sì, anche se ti scordi che è bellì, a me sì, ma da non integralista di Asimov a me è piaciuta, insomma, sì, non manco io. Quindi cioè, il mio primo incontro è stato okay. Poi sono finito a Oberon, più che al Lupo Solitario. Bello, sì, bello, sì. E invece Roberto, tu qual è stato il tuo? Tu innanzitutto quanti anni hai, se possiamo, giustamente? Allora, io mi sa che sono il più sfigato di tutti, perché sono della classe 93. Beh, quindi di anni ne ho 28. Camperai molto più tempo. Sì, esatto, ci sopravvivi, quindi meglio di questo, insomma. è la cosa, allora, positiva. Il concetto è che io per i libri game, allora, presumo che quando proprio sono nato già stavano, diciamo, non proprio sul tramonto, ma diciamo che già c'erano i primi le prime tracce di declino. Sì. E io ebbi modo di conoscere i libri game, ricordo, al mare a Cattolica, perché allora io ho sempre odiato il mare, cioè nel senso mi lamentavo, non mi piaceva abbronzarmi, non mi piaceva stare sotto al sole, e quindi chiedevo sempre ai miei di uscire, cioè al massimo di passeggiare, cioè di tutto pur di stare lontano dalla spiaggia. E mi ricordo che mi imbattei in una libreria dove fuori c'era tipo una grossa cesta con prendi 3, paghi 1, cioè, ed erano i libri game proprio in svendita totale. E al, che poi a pensarci dopo tanti anni fa tristezza, però in quel momento mi incuriosivo perché diceva scegli la tua avventura, c'è cioè proprio cartelli enormi pur di, pur di sbarazzarsene. Avanzi di magazzino di 10 anni prima, dici. Sì, ma esatto. Sembrava proprio la cesta tipo col il cibo per i maiali, cioè stavamo a quei livelli. Perché c'erano anche altri ragazzini, perché la cesta era bella grossa, io ero piccolo, quindi neanche ci arrivavo a vedere, cioè mi dovevo mettere in punta di piedi per guardare. E quindi nel senso c'erano anche altri ragazzini che erano incuriositi, e quindi immaginatevi la scena di tanti ragazzi in punta di piedi con la testa rivolta verso il fondo della cesta che per poco non ci cascano dentro. Guarda, e... scusami se ti interrompo, però questa scena mi ha fatto venire in mente una mia esperienza identica con i fumetti della Marvel quando io ero piccolo, perché quando io negli anni 80 in realtà i fumetti della Marvel, sembra strano, ma per tutta la durata degli anni 80, quindi l'Uomo Ragno, Fantastici 4 eccetera, erano in declino totale in Italia, l'epoca almeno post-corno. Esatto, l'epoca post-corno, bravissimo. E mi sono rimedesimato con la stessa scena che hai raccontato tu col cestone eccetera. Beh, io che prendevo i fumetti dell'Uomo Ragno e dei Fantastici 4 della Corno pubblicati negli anni 70 nel cestone fuori dalla libreria a poche lire praticamente, ma era la stessa cosa, quindi io ho fatto l'esempio dei maiali proprio perché la cosa buffa che mi ricordo che io una volta che l'ho scoperta di quella libreria dicevo proprio ai miei di passarci quasi ogni giorno, cioè perché erano proprio in offerta incredibile, quindi li imploravo dicendo me li prendi, me ne prendi un altro, sono 3 per 1, conviene eccetera. E mi ricordo che in un paio di occasioni quando guardai la cesta era stata mezza svuotata, e mentre io e altri ragazzini stavamo lì quasi disperati perché quello che era rimasto era più che altro ciò che tutti avevano escluso, perché magari l'immagine non era tanto carina, cioè non ci catturava l'attenzione, arrivava la commessa con un'altra cesta che svuotava, cioè proprio come se stesse rifornendo il cibo. Faceva il refill. Sì. Esatto. Ok. E mi ricordo che in quell'occasione iniziai proprio a leggere i libri game, iniziai con ovviamente con Lupo Solitario che era quello più rifornito. E mi ricordo che proprio il primissimo che lessi fu Lupo Solitario 5, cioè neanche l'1, cioè il 5. Però alla fin fine Lupo Solitario ha avventure autoconclusive, quindi ci sta. Sì, però era un po' più difficile. C'era una conseguenzialità, però. Sì, sì. Se uno li leggeva di fila, diciamo che c'erano molte tematiche che uno vedeva, tornavano, cioè il filo conduttore della storia era migliore. Però anche se li leggevi da sole, cioè non ti dispiaceva. No, però chiaro, diciamo che ti potevi portare delle cose, degli oggetti oppure alcune cose, cioè, che tu hai acquisito. La spada del sole è qualcosa, bravo, di leggendario, esatto, se te la porti, bravo, avanti dal 2. Provo a quella, stavo pensando. Dicevo, ma esatto, che cazzo servirà sta spada del sole poi dopo. Comunque vabbè. Sì, te la trovi sempre, che infatti io poi mi ricordo che quando lo lessi diceva sempre ce l'hai la spada del sole. E io a scervellarmi, a spulciarmi tutto il libro, a dire ma do cacchio sta spada del sole, poi dopo ci ho voluto anni per scoprire che stava nel 2. Che comunque era un guazzabuglio delle storie fantasy tradizionali. Sì, vabbè, sì. Cioè, ma anche quello è un esempio comunque di problema anche della vecchia generazione, perché alla fin fine ad oggi creare un oggetto che dava un vantaggio enorme e lo dovevi ottenere soltanto leggendo il secondo volume, libro, ad oggi sarebbe impensabile. Sta di fatto che io da quell'occasione iniziai proprio ad appassionarmi al genere, soltanto che poi dopo quell'estate famosa non ne trovai più, anzi a distanza di anni scoprì che la libreria proprio era stata chiusa, cioè portò sfiga. Era meglio che non li tiravano fuori quei libri. Sì. E ebbi modo di avere altre notizie sui libri game a scuola, tipo alle medie mi pare, che nella biblioteca scolastica trovai un libro game di Piccoli Brividi. Certo, ah, sì, la serie sì, di Piccoli Brividi, sì, sì, sì, che anche loro che io infatti da piccolo ero masochista, mi guardavo Piccoli Brividi anche se mi spaventava però me lo guardavo, e quando ho visto nella biblioteca questo libro game di Piccoli Brividi lo fregai, proprio lo rubai dalla biblioteca. Tu pensa che non gliel'ho mai ridato. Bambini, non fate queste cose. Non so se Simone ha la stessa esperienza, ma noi, io mi ricordo che Piccoli Brividi io lo leggevo come libro, ma non sapevo che fosse una serie, ci fosse anche una serie TV, una trasmissione televisiva. Lo scoprì anni dopo. No, io i libri questo, no, conoscevo lo show, ma non conoscevo i libri, quindi. Sì, io infatti il contrario, cioè ho scoperto che c'erano le serie la serie televisiva, però a distanza di poco ho scoperto anche che c'erano i libri. E io invece leggevo i libri e ho scoperto anni dopo che c'era la serie televisiva. Bene, allora Carlo, iniziamo con il film, fate voi. Allora, io invece ho scoperto l'esistenza di entrambi tramite il film. Perché il film aiutano sempre. Sono andato a vedere questa roba e ho capito che me l'ho perso. La storia dei film mi ricordano sempre una persona che conosco io che voleva fare l'intelligentona, che si comprava tutti i libri importanti, poi dopo aspettare che uscire il film. Io ho detto ma uscite il film per poterne parlare poi dopo, perché insomma, vabbè. Comunque Carlo, dai, iniziamo, diamo un'infarinata senza fare insomma un'intera puntata. Quindi non c'ho 7 ore, quindi no, stai non dicendo, ce l'hai, no, lo sai, non ce l'hai, è inutile me lo domandi sempre e mi costringi peccato. Sempre a dirti che non ce l'hai, è peccato, lo so. Noi te le daremmo, Carlo, però lo so. Lui non muore. Comunque, esatto, allora iniziamo dall'inizio, quindi se dobbiamo iniziare dal principio. In realtà dire quando è nato libro game, i libri game o comunque il concetto di libri game non è semplice, perché come tutte le cose in realtà c'è stata un'evoluzione, diciamo che. E questa è una cosa fondamentale da dire per tutta una serie di considerazioni che poi farò dopo e che magari faremo anche insieme, è che in generale l'uomo, l'umanità, noi in generale tendiamo, il gioco per noi è fondamentale e tendiamo a giocare con qualsiasi cosa. Se c'è un sasso che rotola, lo prendiamo, poi questo diventa una palla, iniziamo a tirarlo e giochiamo, inventiamo i giochi di calcio, di basket, eccetera, con la palla. Se c'è un martello, lo usiamo per fare qualcos'altro, poi colpiamo la pallina, diventa il baseball e così via. E se c'è la scrittura e ci sono i libri, che sono già un divertimento di per se stessi nel leggerlo, però a un certo punto pensiamo che si possa magari giocarci di più con questa struttura. E quindi si può dire che decidere di rendere più divertente una struttura narrativa lineare è un'invenzione che è nata molte volte. Non necessariamente chi l'ha fatta per primo, poi dopo gli altri allora hanno copiato da quello che allora poi ha ispirato quell'altro, non è conseguenziale, è una cosa che ha avuto tanti inizi diverse volte nel tempo. Di sicuro i ricercatori attuali hanno identificato alcuni libri, alcuni esperimenti di questo tipo che risalgono addirittura agli anni 30 del Novecento, in cui c'è qualcosa che inizia a somigliare a quello che oggi noi consideriamo un libro game, un libro a scelte multiple, un libro gioco, un libro con cui si interagisce, un racconto con cui si interagisce. E il più vecchio di cui si ha notizia fino ad oggi, però, perché potrebbe saltare sempre fuori qualcos'altro domani, cercando meglio, cercando più a fondo. È un libro pubblicato negli Stati Uniti nel 1930 di Doris Webster e Mary Alden, che sono due Mary Alden Hopkins, che scrissero questo libro che si chiama Considerate le conseguenze, il titolo, che aveva una dozzina di differenti fini che dipendevano dal gusto del lettore. Quindi fini, in realtà fini intendi finali, tu dici? Finali? Okay. Sì. Parliamo in italiano, magari. Sì. Aiuta, aiuta a capire. Perdonami, ma sono le 21:55, inizio a soffrire. Hai ragione. Pensa dopo. Vai, esatto, pensa dopo sembro ubriaco, anche se sono astemio. E quindi aveva questi finali multipli, insomma, in pratica tu arrivavi a dei bivi e sceglievi di andare da una parte o dall'altra e succedevano e la storia cambiava nel finale. Ci sono altri esperimenti, adesso siccome non ho 7 ore e mezza non starò qui a dire tutte le altre esperimenti, però diciamo che tra più importanti si può identificare degli sperimentazioni in questo senso di scrittori anche molto conosciuti e molto famosi, come spero di pronunciarlo giusto, perché sai, capite che io con le pronunce faccio leggermente schifo, Borges. Lo scrittore argentino, okay. L'ho pronunciato giusto, sì. Okay. George Borges, premio Nobel, insomma, famosissimo, eccetera, che scrisse diversi romanzi brevi come uno studio del lavoro di Herbert Quain del 41, che ha una storia in tre parti che ha dei punti in cui ci sono delle scelte da parte del lettore, quindi può arrivare a 9 finali differenti possibili, no? E ne scrisse anche altre, insomma, quindi già comunque anche scrittori molto famosi sperimentarono con questa possibilità del racconto interattivo, che rimangono un po', se vogliamo, delle cose a sé stanti. E come ho detto, non necessariamente Borges scrisse questo perché aveva letto il libro del 30 di Doris Webster, che probabilmente non sapeva neanche che esistesse, però ci stava proprio nella volontà e nella sperimentazione dell'autore, dello scrittore, sperimentare col media col quale interagiva, quindi il libro stesso. Addirittura ci sono delle sperimentazioni un po' in tutto il mondo, tra cui anche in Italia. In Italia uno scrittore molto molto famoso nostro, considerato uno dei più importanti scrittori del Novecento italiano, sperimentò qualcosa di simile, e sto parlando addirittura di Gianni Rodari. Gianni Rodari nel 71 scrisse una collezione di storie brevi che si chiamava Tante storie per giocare. Tante storie per giocare in realtà era nata come innanzitutto una trasmissione radiofonica che lui faceva alla radio, per la RAI, e questi racconti che faceva in radio divennero dei libri. Divenne un libro, scusami, con questi brevi racconti, dove veniva lasciato al lettore, quindi al bambino, la scelta dei differenti finali. Ogni storia aveva 3 finali diversi e il lettore poteva scegliere il finale. Per chi non l'avesse letto, comunque lo consiglio, perché come tutti i libri di Rodari, io, come penso molti di noi, lo adoro da sempre. Però ci sono dei personaggi divertentissimi in questi libri, come il mago Girò, che ignora l'esistenza degli elettrodomestici, è un mago e non sa che esistono gli elettrodomestici. Ci sono degli alieni che arrivano, i fantasmi del pianeta Bort, che sono dei fantasmi di alieni che vivono tipo assolutamente rassegnati, tirano a campare, non sanno proprio, dicono sì, ma tanto chi se ne frega di tutto, eccetera. Il gatto viaggiatore, quello che va sul treno Roma-Bologna, cioè, ce ne sono di tutti i tipi. Okay. Ed è molto molto divertente, e poi c'ha questi finali multipli, insomma, che lo dobbiamo considerare come il primo scrittore italiano di libri game, alla fine, se vogliamo. A questo punto si tratta racconti per giocare, già dimostra pure un'intenzione, no? Cioè, proprio, tante storie per giocare, tante storie per giocare, okay. E quando nasce invece magari il primo libro che allora, poi, intenzionalmente più compatibile rispetto ai libri game così come li conosciamo? Cosa succede? Qua arriviamo, questi esperimenti che ho citato sono queste sperimentazioni che si trovano tra l'inizio del Novecento e più o meno gli anni 70. È negli anni 70 che poi si identifica questo genere e che poi viene proprio, diciamo, codificato. Succede tra il 72 e il 75 con una serie di collane che anche in questo caso non per forza si sono influenzate a vicenda, ma che sicuramente traggono entrambe la loro, diciamo, modalità di utilizzo dalla passione per i giochi di ruolo. Ricordiamo che giocare ai giochi di ruolo già in quegli inizi degli anni 70 stava diventando Dungeons and Dragons, stava diventando un gioco importante, e soprattutto la modalità di gioco dei giochi di ruolo necessita della, diciamo, scrittura interattiva del master, no? Quindi è qualcosa che si avvicina alla creazione, sì, addirittura è proprio orale, di un racconto. Cioè, c'è pure, esattamente, c'è pure il passaggio un racconto che... orale, che è ancora più antropologico, proprio come tipo di rapporto. Quindi sicuramente si riconosce in questa, diciamo, in questa tipologia di gioco che è il gioco di ruolo, quello che ha dato un po' il là alla all'invenzione, poi alla codifica dei libri game. E la linea che si chiamava Choose Your Adventure, questa serie americana negli Stati Uniti, che inizia nel 72 più o meno, se non mi ricordo male, è praticamente nel 76, scusate, no, Adventures of You è del 76, ecco, adesso le date purtroppo non me le ricordo molto bene, dovrei andare a rileggere gli appunti, però più o meno in quegli anni, dai, diciamo in quegli anni lì, esiste questa serie pubblicata negli Stati Uniti di Choose Your Adventure, scegli la tua avventura, dove inizia la pubblicazione seriale di racconti che diventano, diciamo, codificano quello che è il libro game tradizionale, okay. Ed è la prima serie di grande successo in America. Dobbiamo ricordare in questo momento che negli anni 70, questo lo dico sempre spesso, sempre in archeologia informatica eccetera, il mondo negli anni 70 non era globalizzato, quindi quello che succedeva negli Stati Uniti non succedeva in Inghilterra, non succedeva in Europa, quello che succedeva in Inghilterra non succedeva in Francia, quello che succedeva in Francia non succedeva in Italia, perché prima che un'informazione viaggiasse, passasse, qualcosa di che iniziava a funzionare in un paese riuscisse a diventare altrettanto famoso da un'altra parte, passava a lungo tempo e non era così scontato. E non era neanche scontato, poteva anche non succedere, perché nel frattempo poteva succedere che qualcun altro dall'altra parte facesse, certo, qualcosa, certo, di simile, che quindi prendeva il posto di quello che era stato inventato dall'altra parte. Certo. E anche in questo caso poteva essere l'ispirazione comune dai giochi di ruolo, ma non c'era magari la diciamo la contaminazione tra uno e l'altro. Infatti negli Stati Uniti, mentre negli America la Bantam con Choose Your Adventure, negli Stati Uniti, cioè in Inghilterra invece, da noi in Europa, diciamo, nasce un'altra serie molto molto famosa di libri game, che è Fighting Fantasy, che poi verrà pubblicato da noi in Italia come Dimensione Avventura, di Steve Jackson e Ian Livingston, che è pubblicata dalla Puffin e poi pubblicata anche in Italia eccetera eccetera, diventa una delle serie più famose al mondo, viene tradotta in 21 lingue, anche se, come abbiamo detto prima, in Italia non fu, cioè Dimensione Avventura arrivò, ma arrivò dopo, perché prima da noi la popolarizzazione fu fatta da una serie tra virgolette di minore di John Denver, che era appunto la serie con il primo volume di Lupo Solitario, no? E quindi era la, non mi ricordo la casa editrice, adesso mi sfugge, me lo sono segnato, mi ricordo più comunque. Quindi oltretutto da dire che Dimensione di avventura, Young Livingstone, che è uno dei due fondatori insieme a Steve Jackson, ce lo ritroveremo anni dopo nel mercato del, come personaggio importante del mercato del videogioco, è il fondatore della Domark, ve la ricordate? Ah, la Domark, come no, certo. Esatto. Infatti qua viene un punto che tu mi hai chiesto in realtà nella storia, cioè la contaminazione tra il libro game, sì, sarebbe, e il punto, il videogioco, il punto successivo, il momento in cui, se no, più che altro se c'è che tipo di rapporto ci sta tra, infatti, il libro game, che connessione con la narrativa interattiva informatica, perché poi chiaramente anche uno se potrebbe, anche se io devo dire che se io faccio un raffronto nella narrativa informatica, quella più tradizionale, quindi l'avventura grafica, l'avventura testuale, che è quella che mi viene più in mente, diciamo, sì, che l'atto di scrivere ti rende quasi partecipe della scrittura, no? Mentalmente. Mentre che invece sul libro game tu in realtà partecipi, non sei lo scrittore, no? Cioè, quindi tu partecipi con la scelta. Però mi interessava sapere se c'erano altre forme di connessione. Infatti, no, ma tu hai dato una lettura corretta, perché in realtà al contrario di quello che magari si potrebbe pensare, o che quello di, che molti presumono, non c'è un aggancio, infatti, una correlazione diretta tra i libri game e l'interactive fiction, le avventure testuali, che come è noto, come abbiamo parlato in altre puntate, come si sa, si dà con Colossal Cave del 76, più o meno l'inizio di questo genere, diciamo, di videogioco, che anche se è difficile definirlo videogioco in senso stretto, quindi dell'interactive fiction dell'avventura interattiva testuale su computer. Però tutte e due riconoscono la stessa paternità, cioè non furono i libri game a influenzare la creazione delle avventure testuali, ma furono comunque i giochi di ruolo. I giochi di ruolo comunque hanno influenzato l'invenzione dell'avventura testuale, nel senso dell'esplorazione della caverna, di quello che succedeva, sicuramente molto di più che qualsiasi altra, certo, tipologia di sorgente. Quindi diciamo che sono cugini, ecco. Anche se, nascono più o meno nello stesso periodo, perché con la scrittura del 76 è più o meno tra, come ho detto prima, la metà degli anni 70 quando iniziano a essere scritti. Ma infatti io volevo sentire anche Puccio e Roberto, perché secondo me in realtà è più il videogioco successivamente che ha mutuato qualcosa dal libro game, tanto quanto invece in realtà il contrario, perché secondo me poi nel mondo del videogioco sono arrivati le famose storie a bivi, che non c'entrano, cioè, non sono quelle della Telltale, esatto, sì, ma sono arrivate in maniera indipendente, esatto, se vuoi, cioè non sono, secondo me il libro game e avventura testuale non sono imparentate in nessun modo. Il fatto che poi ci siano subentrate forme di narrativa interattiva a bivi sul mondo del computer non c'ha una correlazione con l'avventura testuale. Allora, diciamo che viaggiano alla fin fine un po' su binari paralleli, perché esatto, comunque sia lo stesso libro game si potrebbe anche definire come una sorta di GDR in solitario, perché il gioco di ruolo alla fine cosa ha di caratteristica? Un master che racconta la storia, tante persone che magari vi prendono parte, e a volte magari il difficile del gioco di ruolo è trovare magari il cosiddetto party, cioè chi è che fa il master, chi è che gioca, devo crearmi il personaggio, e a volte magari poteva capitare che stai da solo, non sai che fare. Io con il libro game su questa cosa può anche giocarci da solo. Su questa cosa sono d'accordo con l'interpretazione generale. Sul discorso del gioco di ruolo sono d'accordo parzialmente, cioè ne mutua molto sicuramente, però è veramente, c'è, cioè, una storia bivi, in realtà è comunque una narrazione predefinita, sì, sulla quale è tu come se il agisci. Testo, cioè il libro che tu leggi, è il master che ti sta parlando. Sì, però è un po' è come se se parlasse solo a te, diciamo, alla fin fine. Diciamo che il problema è che il libro game ha necessariamente e strutturalmente, per limiti oggettivi, una visione ristretta del concetto di ruolismo, no? Cioè, nel senso, comunque lì è comunque una narrazione predefinita sulla quale tu ovviamente ogni tanto interagisci. Chiaro, non ha ovviamente la libertà proprio di movimento che garantirebbe il GDR, cioè lì è chiaro, cioè, sta anche all'autore riuscire a simulare questa cosa, offrendo magari, anzi prevedendo, tutte le possibili scelte che un lettore avrebbe voglia di fare. Eppure nel mondo dei videogiochi, al di là dei giochi più conosciuti, diciamo così, ma io parlo proprio anche a livello testuale, il videogame ha preso molto dai libri game, perché tante formule di narrativa interattiva oggi anche possiamo vedere tranquillamente che hanno preso un po' una certa posizione, no? Al di là dei libri game proprio nudi e crudi che vengono costruiti o riportati o costruiti direttamente a livello informatico, poi in realtà ci sono tante forme di libro interattivo molto simile, che ovviamente sono derivative dai libri game, e quindi è più il libro game che ha dato qualcosa all'informatica piuttosto che il contrario. Cioè, questo è uno. Ma questa bisogna vedere anche in quanto la narrativa di per se stessa, quindi indipendentemente dal concetto di libro game adatto all'informatico, al videogioco, perché il racconto è quello da cui sempre si parte, quindi sì. I generi poi che hanno, il genere fantasy aveva avuto un periodo comunque di decadimento all'inizio degli anni 2000, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che poi a un certo punto ha ripreso come genere letterario e quindi ha poi ridato vita un po'. Infatti, non tocchiamo sto tasto, no, però guarda, io al petto. C'è stata e c'è sempre stata una discussione sul perché a un certo punto i libri game avessero, diciamo, perso questa popolarità che avevano iniziato a guadagnare, e c'è questo periodo del buio, e alcuni dicono è colpa dei videogiochi perché i videogiochi hanno preso il posto. Scrivano questa guarda, sul periodo di decadimento ci sono tantissime teorie, cioè io ho modo anche di bazzicare nei gruppi, nei social dedicati proprio ad appassionati di libri game, e puntualmente a volte si riparla del ma perché sono decaduti i libri game. Più che altro perché alcuni temono che succeda la stessa cosa anche con la nuova generazione, cercano di prevenirlo. Questo non si può mai sapere, però diciamo che la giustificazione che normalmente si usa, che ho trovato scritto del fenomeno della crescita del videogioco e quindi ha fatto apparire e sparire i libri game, non la trovo coerente, perché in realtà chi giocava ai libri game già giocava ai videogiochi, i videogiochi già c'erano, certo. E a chi piacevano i videogiochi piacevano anche i libri game. Vabbè, erano due esperienze separate, cioè nel senso separate, esatto, il fatto che siano stati introdotti i videogiochi non vuol dire che uno abbandonasse. No, perché i videogiochi non è che molto spesso dicono sono stati diventati famosi i videogiochi, no, i videogiochi erano già famosi, sì, erano già anche prima. Ma poi sono due media diversi, cioè come dici, io non leggo più un libro perché vado al cinema, cioè nel senso. Ma figurati, usano la stessa cosa perché si vendono meno fumetti. Vabbè, certo. No. Sì, vabbè, ci sono i videogame, che cazzo. I videogame sono anche la colpa per cui la gente usa e spara in giro per strada, insomma, tanto i videogame sono e si droga. A parte questa, io adesso non ti so dire il perché. Però so che da un punto di vista storico il decadimento dei libri game ha corrisposto a quando, allo stesso periodo di decadimento dell'interesse nei giochi di ruolo e del fantasy, quindi in realtà questa cosa è collegata. Poi sul perché sia successo non te lo so dire, però libri game, GDR e fantasy sono delle cose che erano volente o nolente, i libri game erano nel 90%, 99% fantasy come ambientazione. Sì. E quindi erano direttamente collegati a quella cosa lì. Comunque ci fu, io ricordo che comunque. Beh, infatti hanno provato furono dei anche con Sherlock Holmes, no? Quelle cose da mille e una avventure. Con la fantascienza. Mille e una notte. Io ti sto parlando del primo periodo. Sì, è vero. Però di quel periodo lì, quello che va dall'85 al 95, se vuoi, con periodo di massima crescita, no? E poi inizia un pochino il decadimento, della decadenza. Forse anche proprio la storia. praticità stessa dei libri game, uno dei motivi, perché alla fin fine immaginatevi comunque in quel momento viene introdotto il libro game, uno dice che cos'è il libro game, lo guarda, lo sfoglia e dice avventura interattiva, che figata, lo inizia a sfogliare, prende uno, due, tre volumi, magari tutti fantasy. Vabbè, esatto. È chiaro che è anche un problema generazionale. Una volta superato il momento, cioè superi il momento di meraviglia e vuoi sempre qualcosa di più. Vedi che magari passano gli anni, le avventure si somigliano un po' tutte, esce un nuovo libro game, altro fantasy, guardi la meccanica uguale alle precedenti, è chiaro che poi alla fin fine il movimento perde interesse. Sì, diciamo, poi a questo infatti ci voglio arrivare, perché poi veniamo anche a te proprio Roberto, cioè ovviamente entriamo un attimo anche nel tuo mondo, cerchiamo di fare un raffronto. Però poi è vero pure che è anche una questione generazionale, cioè questa è una generazione che rispetto magari alla mia generazione legge di meno, no? E quindi l'approccio magari è verso, come, ecco, per esempio, se tu non, se non sbaglio, tu hai scelto di pubblicare le tue opere sul mobile, no? Se non dico una sciocchezza, no? Allora diciamo che per adesso le mie opere sono uscite solo in digitale, però poi magari ne parlo anche più nel dettaglio, usciranno anche in cartaceo. Okay. Però diciamo che io, per essendo comunque un autore esordiente, ho cercato di pensare anche alla piattaforma che potesse rendere un po' più di giustizia, che potesse essere anche più facilmente diffusa per quello che comunque avevo creato, e sapendo che al giorno d'oggi, avendo io realizzato un'opera prettamente con un target giovane, perché comunque strizza l'occhio anche alle persone, diciamo, di un'età più avanzata, però magari le gag, le battute, lo stile demenziale è più rivolto magari a adolescenti, certo, e ragazzi. Certo. E cos'è che fanno spesso gli adolescenti e i ragazzi? Stanno sul cellulare. Esatto, infatti è quindi anche questo, offrire appunto loro la possibilità di scaricare un'app tra le tante che sicuramente già hanno sui loro telefonini, potrebbe permettere loro di conoscere quantomeno i libri game e da lì poi approfondire l'argomento. Allora, c'è un esperimento, e poi qui chiudo un attimo questo tipo di capitolo, poi andiamo a parlare un po' strutturalmente proprio dei libri game, e facciamo anche un raffronto tra passato e futuro, e poi entriamo proprio nel mondo di Roberto, no? Delle opere di Roberto. Però se proprio dovessi fare un esempio di un gioco che io ho comprato su Steam diverso tempo fa e che oggi sta su Steam a 10,79 euro, che è una cifra impegnativa per un libro game fondamentalmente, però si intitola Over the Alps, che è praticamente una sorta di libro basato sullo spionaggio, legato alla Seconda Guerra Mondiale, se non ricordo male, tra Italia, Svizzera e Europa Centrale, insomma è una sorta di giallo d'avventura, diciamo così. E la cosa interessante, che ovviamente è prettamente testuale, cioè non c'è voice, non c'è animazioni, cioè nel senso non ci sono filmati, è testuale. Però la cosa interessante è che il testo è di abbastanza dinamico, cioè nel senso comunque c'è questa cosa, questa partecipazione, scorrono le cose, quindi puoi anche controllare la mappa, e poi quando tu arrivi in una determinata location, prima di entrare lui ti fa vedere una sorta di animazione ambientale low poly di quello che è praticamente la situazione. Quindi diciamo che la cosa interessante di un progetto come questo è quello di portare un concetto tradizionale e dargli una veste, come posso dire, più adeguata al medium, ma perché questo è un progetto nato su PC. Ovviamente se fosse nato su un mobile tutto questo arzigogolume sarebbe di impiccio, poi fondamentalmente, no? Cioè, perché poi ovviamente tu devi sempre rapportare, no, allo schermo con il quale tu stai ovviamente lavorando. Ecco, no, infatti queste sono cose che vanno anche studiate da questo punto di vista. Cioè non basta soltanto avere un'idea, un progetto in mente, bisogna anche capire come cioè qual è il modo migliore per poterlo proporre al grande pubblico. Esatto. Sì. In Oriente c'è un fiorire di visual novel per mobile prevalentemente, che è vero che mancano di interattività, perché più delle volte le visual novel sono statiche, cioè non hanno scelte che puoi fare o comunque non ti influenzano il finale, però sono pensate disegnate per essere lette in mobilità. Sì. Cioè, con delle animazioni. Sì, diciamo che Over the Alps si vede proprio che è pensato per uno schermo verticale, orizzontale, scusa. Quindi in 16 noni tradizionale, non è pensato per essere giocato in verticale, non è pensato insomma per stare in quel tipo di spazi lì, perché comunque la quantità di informazioni sullo schermo, al di là della parte più predominante che è il testo, secondo me non è compatibile proprio con... Quindi questo è pensato per essere lavorato lì, no? Ed è, potrebbe essere una sorta di evoluzione di quello che potrebbero essere i libri game, perché oggi ovviamente il libro game, se ha da esistere, ovviamente a parte per i cultori, come può essere magari per la musica che dal digitale se lo compra in vinile, però in linea di massima, secondo me oggi, se uno dovesse produrre, come fa giustamente Roberto, delle opere, le produce in digitale. Cioè, nel senso, non c'ha senso pensarle solo ed esclusivamente per un medium oramai tradizionale come quello della carta. Scusa Carlo, ma anche solo quanto è più comodo tenerlo in digitale. Più che altro poi dipende sempre anche dal progetto, perché ripeto, allora la comodità dipende anche proprio da chi la deve utilizzare, perché è chiaro, io ho fatto prima l'esempio dei ragazzi, che chi sta sempre sul cellulare nulla gli costa andare sullo store e scaricare un'app e aggiungerla alle tante che ha a disposizione. Un gamer, uno che magari sta spesso smanetta al PC, che magari conosce già i giochi, ha più facilità per scaricare comunque un gioco in più. Ci sono comunque dei prodotti cartacei che non renderebbero al meglio in versioni alternative. Quindi bisogna anche spesso pensare al tipo di progetto che si ha, okay, perché esistono libri game, soprattutto al giorno d'oggi, dove si sperimentano meccaniche nuove, che trasporle in digitale o tramite videogioco sarebbe molto molto macchinoso. Cioè alla fin fine andrebbero a danneggiare quello che poteva essere un buon prodotto. Vabbè, poi, no, poi ce lo spiego, capisco, però aspettate, scusate ragazzi, c'era Carlo che voleva dire una cosa. Sì, io volevo dire una cosa, cioè, che è un po' il contrario di quello che ha appena detto. Ah, a posto. Nel senso che è vero, ci sono delle caratteristiche magari sul libro cartaceo che difficilmente riesci a rendere digitale, ma anche è vero che il digitale ti dà delle possibilità che sulla carta non hai. Mi spiego meglio. L'avevo già raccontato qualche giorno fa, probabilmente quando stavamo preparando la puntata, che nel 99 ero a casa di Enrico Colombini, che adesso dissimo di là ancora Enrico Colombini, sì, Enrico Colombini. No, ma io Enrico Colombini, tanta simpatia, uno dei primi autori di adventure in italiano, eccetera, eccetera. Pensate, eravamo a casa di Enrico Colombini, io, Enrico Colombini e Bonaventura Di Bello, giusto per dirti che trittico che c'era in quel momento a casa di Enrico. E Enrico stava scrivendo... Bonaventura lo salutiamo perché mi ha scritto che lui ogni tanto ci segue, quindi... Insomma, fa sempre piacere. Grande Bonaventura. Se ci stai ascoltando, sappi che mi dispiace molto che tu sia andato via da Quora, che era l'unico posto su cui si potevano leggere le sue cose. Enrico stava scrivendo un libro interattivo quando i libri game, nel periodo di, diciamo, quasi scomparsa dei libri game, eravamo credo nel 2007-2008, adesso non mi ricordo esattamente l'anno. Comunque, e stava scrivendo questo libro che si chiama Locusta Temporis, ma lo stava scrivendo in digitale ed è un libro interattivo, libro game, che puoi comprare solo in digitale, sì, e non esiste versione cartacea. Perché? Su Amazon. Perché lui, sì, lo puoi comprare su Amazon dove vuoi, ma non esiste in versione cartacea perché in cartaceo non funzionerebbe, e vi spiego il motivo. In pratica, lui ha programmato questo libro, cioè utilizzando le possibilità che ti dà il libro digitale, quindi il formato ebook, il formato PDF digitale, eccetera. Lui ha inserito delle variabili di stato all'interno del libro che quindi vengono valorizzate quando tu compi delle determinate azioni. Certo. Esattamente. Esempio, quello che farei io. vanno in una stanza, no, sul serio, e hanno determinati, sì, no, ma è vero, vanno, il personaggio va in una stanza, vi trovate in una stanza e puoi fare determinate azioni, però queste determinate azioni non ti portano da nessuna parte. Scopri che invece devi fare un'altra azione in un'altra locazione precedente, che se non la fai, quando tu entri nella stanza, quindi quando vai in quella stanza successiva, e che leggi quindi il paragrafo di Fella, no, di quella stanza, non ti viene data l'opzione giusta per andare avanti. Madonna, quindi sto pensando alla flowchart gigantesca. Esattamente. Che si sarebbe dovuto fare. La di Enrico in questo senso. Ma era bellissimo. In pratica, tu cosa dovevi fare? In una stanza dovevi fermare il giradischi, perché se non fermavi il giradischi nella stanza dopo non ti permetteva di aprire una determinata porta, o non sentivi il rumore che si apriva una porta, certo, e quindi non ti accorgevi, certo, che certo, c'è una porta nascosta. Tra l'altro, allora, vi stupirà sapere che meccaniche di questo sim, di questo tipo, al giorno d'oggi sono in effetti possibili anche in cartaceo. Perché hanno introdotto delle meccaniche in cui non è esplicito il comando del tipo, se, che ne so, sei in una stanza chiusa, la stai esplorando, non ti dice del tipo vai a sinistra, vai a destra, apri la stanza in alto, in basso, se hai la chiave vai al, che lì allora inizia a dire ah, devo cercare una chiave. Certo. Invece a volte magari tu esplori anche una stanza prima, trovi una chiave e magari la chiave dice hai trovato la chiave su cui è inciso, che ne so, 100, e quello è il numero del paragrafo dove a un certo punto devi andare, e ti dice vai al paragrafo 100 nel momento stesso in cui trovi una stanza chiusa a chiave, così che se tu poi più avanti vedi il testo che ti dice apri una porta, giri la maniglia, è chiusa a chiave. Se ti ricordi della chiave che tu avevi, vai al 100 e vai avanti, allora, con la storia. Delle meccaniche, oppure ti dice delle aggiungi meccaniche, il 100, sì, okay, al paragrafo dove sei. È perfetto, è interessante questo. Infatti delle meccaniche simili ci sono anche su Fortezza Europa, con delle cose, sì, che tu devi memorizzare, delle devi segnare. Se tu hai avuto l'incontro con quelle cose che hai dovuto memorizzare, riutilizzandole nel discorso, per esempio, più che altro per non dare anticipi, perché alla fin fine uno così facendo si spoilera, per così dire, quello che lo aspetta. Però devo dire la verità, ho degli indizi che non dovrebbe ho visto, esatto, molte meccaniche nuove nei libri game, che però, questa però è una mia opinione da cinquantenne, cioè nel senso da persona forse anche meno elastica da un certo punto di vista, oggi secondo me rendono più innaturale e macchinoso l'affrontare un certo tipo di gioco proprio sul cartaceo. Per me oggi, per come la vedo io, poi adesso voglio sentire proprio il parere, sì, sì, di Roberto, perché qui poi sta bene il, no, no, ma il bello è proprio confrontarci, perché alla fin fine non esiste una meccanica, no, no, ma è chiaro, cioè, che, però che va quello che per tutti, che se no tutto sarebbe con quella, no, no, ma quello sicuramente, cioè, ma poi in generale anche la sensibilità e la predisposizione delle persone, perché io per esempio oggi, certo, un libro game per me è dal Kindle in su, cioè nel senso è dal Kindle in avanti, cioè nel senso è dal, comunque dal supporto digitale in poi, cioè io oggi se dovessi mettermi a leggere un libro game, giocare un libro game sul cartaceo, nonostante le tante nuove tecniche, le nuove predisposizioni e tutto quello che vogliamo, io oggi comunque non mi ci metterei, anche perché proprio da grande appassionato e da persona che comunque ha lavorato con tanti tools, per esempio di sviluppo di storie interattive, non necessariamente per arrivare a un quid, cioè, ma anche semplicemente proprio per esplorare, per conoscere, proprio per farmi una mia opinione, e come dice giustamente Carlo, inserire dei fattori e delle variabili all'interno della storia permette alla storia di andare avanti con maggiore naturalezza rispetto ad avere delle cose che tu devi incastrare o ti devi segnare o ti devi memorizzare, che comunque è una cosa che ha sicuramente il suo perché, però per come la vedo io poi ovviamente la cosa diventa difficile. Io anzi, se proprio dovessi dire, aggiungerei un elemento ulteriore alla narrazione tipica del libro game, che è proprio l'aspetto strettamente ruolistico, cioè tu come personaggio hai determinati caratteristiche, attributi. Che sono attributi che sono indicati in determinate variabili, e che se tu arrivi a determinate situazioni e non hai i giusti attributi, devi trovare una alternativa, un percorso alternativo, una situazione alternativa, perché tu non sei in grado fisicamente o mentalmente di raggiungere il determinato obiettivo. Quindi poi alla fine, in realtà, oggi gli strumenti rispetto a una volta, no, dove era tutto molto più, come dice Roberto stesso, vogliamo un attimo parlare di com'era il libro game negli anni 80. Il libro game negli anni 80 era molto semplice. Hai una tabella dove tu tiravi dei dadi che ti davano delle caratteristiche, succedevano degli eventi, andavi a destra, andavi a sinistra, combattevi tirando dei dadi, se quel dado sommato alla tua forza fisica era superiore a quella di quell'altro, eri morto, oppure andavi avanti, oppure perdevi punti vita. Fondamentalmente era molto ristretto, no? C'erano dei limiti oggettivi. Oggi, Roberto, come sono invece? Cioè, nel senso, in che cosa sono evoluti i libri game tradizionali? Quindi lasciamo perdere un attimo il digitale, poi ci ritorniamo. Sì, sì. Allora, in linea generale il concetto è che ad oggi, magari sarebbe proprio prima di tutto fare un brevissimo preambolo su come ci si è arrivati alla nuova generazione, perché uno giustamente dice: erano spariti, come mai sono all'improvviso tornati? Cioè, cosa che ha fatto scattare un po' la scintilla? Allora, il concetto è che comunque sia, già nei primi anni del 2000 questi libri game sembravano essere spariti. In Italia, uno dei nostri pochi vanti, perché non è che l'Italia sia famosa nel mondo per chissà cosa, però tra i libri game, nel nuovo Rinascimento, è uno dei paesi che riesce a sfornare all'anno più prodotti nuovi. E questo tra i motivi per cui è successo è grazie anche al fatto che esisteva già verso l'inizio anni 2000 un forum tutt'oggi attivo chiamato Libro Games Land, dove c'erano appunto dei vecchi appassionati, tra cui il gestore Francesco Di Lazzaro, che praticamente riuniva questi appassionati di libri game proponendo degli stimoli sia per poter magari parlare e discutere dei libri game, organizzare ogni anno addirittura un contest su dei corti, anche per stimolare gli autori a creare qualcosa, e allo stesso modo proporre una sezione dello stesso sito i cosiddetti libri nostri, che erano proprio dei veri e propri libri, o proprio originali, quindi creati dagli autori italiani, o semplicemente tradotti di quelle opere che magari non sono mai uscite in Italia. È chiaro che questo pian piano ha creato anche una diffusione del genere, e alcune case editrici hanno iniziato proprio a riprovare, a riproporre una nuova versione delle vecchie serie, perché inizialmente intorno al 2010, poco più, anzi in realtà un po' più avanti, hanno iniziato proprio ad esserci delle ripubblicazioni delle vecchie serie, ma non solo semplicemente le vecchie versioni uguali da offrire alla generazione di oggi, ma anche la correzione di alcuni difetti. E quando hanno visto che comunque le persone erano interessate, cioè la nuova generazione ancora era interessata a questo genere di libro, quelli che un tempo erano i lettori hanno deciso di trasformarsi in autori e hanno iniziato proprio a creare nuove opere, quasi come a voler correggere tutte quelle cose che a loro stessi non piacevano della vecchia generazione. E al pubblico questa cosa è piaciuta, perché significava proprio superare quel livello di staticità, offrendo non solo però nuove meccaniche, ma anche nuove tematiche. Perché, come abbiamo detto poco fa, al 99% si trattava di fantasy. C'erano ovviamente anche altri generi, cioè abbiamo citato Sherlock Holmes, che era una serie abbastanza nota, però al giorno d'oggi abbiamo a che fare con libri game, con tematiche che un tempo penso che non avremmo mai visto. Cioè, c'è un libro game su Baba Yaga, cioè la strega della mitologia russa. Certo. C'è addirittura un libro game che ha come protagonista Moriarty, cioè il nemico di Sherlock Holmes, che è una cosa che era strano da vedere un tempo. Ci sono libro game sugli zombie, nello spazio, ci sono addirittura libro game specifici per bambini che un tempo non c'erano. Cioè i ragazzi magari dell'elementario o delle medie dovevano tra virgolette accontentarsi di Lupo Solitario perché magari non c'era solo quello. Al giorno d'oggi ci sono proprio dei libri game per ogni fascia d'età, persino quelli che potrebbero avere 5 anni, 7 anni, puoi interpretare addirittura un gatto, che è una cosa davvero molto carina. Puoi interpretare addirittura un topolino, cioè cose proprio apposite per i bambini che in questo modo possono crescere. Perché alla mi hai ricordato una cosa, in realtà all'epoca, almeno dall'85, c'era una possibilità per i più piccoli di accedere a quel tipo di narrativa, perché Disney... era nel 1985 Bruno Concina e Cavazzano, mi pare. Bravissimo. Pubblicarono la prima storia Bivi, che era Topolino e il segreto del castello. Vero. Esatto. Tra l'altro, di recente Concina, poverino, è morto nel 2010. Tra l'altro, partecipava a un forum che io ho amministrato per più di un decennio, che era Comic, che era il forum di Comicus, che è ancora attivo. Tra l'altro, io ormai sono fuori. Le storie allora a me no ho mollato, io non ce l'avevo tempo. Ogni tanto intervengo per questioni tecniche, database che zompa, roba del genere, però no, ma sicuro io che bannavo le persone. Dicevo, sostanzialmente erano quello. Io ricordo che Concina, in due o tre volte che ha parlato sul forum di questa cosa, disse che in realtà lui quando creò la prima storia Bivi con Cavazzano non era non si era ispirato ai libri game, ma a una serie di romanzi di autori d'avanguardia francesi che avevano più o meno quel tipo di approccio. È una scuola francese, è una scuola famosa che precede di qualche anno, cioè è proprio una scuola francese di romanzi a Bivi. Mi ricordo quello e il fatto che comunque poi, visto che l'avevamo citato prima, Borges, lui parlava, ovviamente citò la biblioteca di Babele, dicendo: se pensate, alla fine è quello, perché se Borges aveva immaginato una libreria fatta a esagoni, dove su una parete c'è la porta, su cinque ci sono dei libri all'interno delle quali ci sono tutte le combinazioni di lettere possibili, alla fine tutte le permutazioni possibili di una storia sono presenti nella libreria. Quindi sostanzialmente Concina ce la spiegò all'epoca in quella maniera. Tra l'altro la Disney non troppi anni fa, le varie storie a Bivi che sono usciti tra gli anni 80, tra l'85 e gli anni 2000, le ha ripubblicate in volume, sono anche abbastanza facili da trovare e sono a mio parere molto belle. Io non sono un grandissimo fan delle storie Disney su carta, come dire, però quelle le ho ricomprate con piacere, magari spero che mia figlia... Ma infatti questo conferma più o meno quello che dicevo prima quando ho raccontato l'inizio della storia, che in realtà si arriva a questa, diciamo, questa forma di narrativa interattiva in maniera parallela e seguendo diciamo le strade parallele di persone che magari non si sono ispirate tra di loro, non erano in contatto l'una con l'altra. Però sono persino uscito delle raccolte di storie a Bivi. Quelle che pubblicarono negli anni 80, Proprio riunite in un unico volume. Esattamente. Sì, che poi tra l'altro non sono tantissime, quelle prodotte in Italia credo siano meno di 50. Non sono neanche poche, però, se ci pensi a un certo punto di vista, sparse negli anni, però comunque ogni tanto mi ricordavo pure da piccolo che le mettevano. Sì. Comunque ricordiamoci a quello che ha detto prima Roberto, cioè sicuramente si nota che il mercato attuale è più maturo, ma è anche logico perché è la seconda rinascita e quindi per forza di cose prende il meglio e corregge di quello che c'è stato all'inizio del mercato. Non sono però d'accordo quando hai detto che in Italia è grazie al fatto che c'era quel forum di appassionati che allora è solo grazie al forum. Per quanto i forum sono importanti e appassionati, anzi non solo in quel settore ma in tutti i settori, radunano, diciamo, gli appassionati e mantengono magari vive cose che in realtà magari sarebbero morte, sepolte, quindi riescono a radunare, diciamo, gli appassionati, rimane pur sempre un circolo di appassionati. Siamo comunque una nicchia noi autori di libri game. Agli autori sì, ma io sto parlando del mercato. esatto, cioè, no, no, lui parlava, di vivacità, lui parlava di vivacità nell'ambito autorale, nelle discussioni della comunità, quindi della appunto della comunità, che hanno poi creato anche uno sviluppo rispetto a quelli sono i limiti del libro game. Non parlava di mercato. Anche, sì, perché poi col mercato è ovvio, cioè il mercato ci si arriva grazie anche agli stessi autori, perché se gli autori italiani non realizzassero libri game, parlo principalmente del cartaceo, non ci sarebbe nemmeno il pubblico. E la cosa curiosa è più che altro che i vari autori odierni, molti di questi provengono proprio da quel forum. E su questo è quello che diceva Simone, e sono d'accordo. C'è anche tutto i famosi autori della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'est Europa, che hanno mantenuto magari vivo questo mercato. Esatto. Il punto che discutevo è il fatto che la rinascita del mercato, quindi del pubblico generalista, della lettura dei libri game, eccetera, non è una prerogativa italiana, né è una prerogativa italiana il fatto che a un certo punto abbiano smesso di vendere i libri game. È successo più o meno in tutto il mondo, quindi non può essere limitato a una cosa italiana il fatto che a un certo punto la gente ha smesso di leggere i libri game e a un certo punto invece il mercato del libro game è rinato e ha ritrovato, diciamo, una seconda rinascita. Questo, come dicevamo prima, il motivo io non lo so, ma come ho anche spiegato prima, è direttamente correlato al fantasy. Potrebbe essere quello che dicevi tu, cioè la monotonia del genere, sicuramente, cioè il fatto che quando si insiste tanto sul genere. Ma infatti il concetto che un libro game come Lupo Solitario, se lo pubblicassero oggi, penso che non otterrebbe neanche così tanto successo. Sì, anche perché secondo me non è soltanto la tipologia che era un po' ripetitiva. A me da ragazzino Lupo Solitario piaciucchiava, devo dire, era figo, no? Questa cosa dei monaci Ramas, là, quello che è. Però se vai a vedere, in realtà poi ovviamente è una storia banale, cioè nel senso è un trito ritrito di cose viste e riviste tante altre volte in tante altre situazioni, quindi è chiaro che poi alla fine, quindi secondo me oggi, al di là della complessità strutturale della parte ludica del libro game, secondo me oggi è la maturità anche narrativa che fa la differenza. Certo. E questo è secondo me una cosa abbastanza importante. Roberto, parlaci un attimo allora, intanto come nasce questo istinto di diventare autore e quali sono le opere che sono attualmente disponibili, dove sono disponibili, come sono disponibili e via dicendo. Allora, il concetto è che io l'idea di voler proporre qualcosa proprio di interattivo l'ho avuta da parecchi anni. Cioè, diciamo che avevo già in cantiere il progetto di questo libro game chiamato Questavern, quindi avevo già il concept di creare qualcosa che un po' riprendesse, quindi si ricollegasse alla vecchia generazione con una tematica di per sé banale, cioè il fantasy, perché comunque sia creare già da subito qualcosa di nuovissimo pensavo che fosse il passo più lungo della gamba, cioè di andare comunque passo dopo passo. E infatti ho voluto proporre comunque una storia fantasy aggiungendoci comunque qualcosa di nuovo, cioè l'aspetto demenziale, cioè nel senso rendere, cioè quasi una presa in giro, una parodia del classico fantasy. E un'altra meccanica che ho voluto introdurre è il cosiddetto diceless, cioè senza dadi, che anche questa è una peculiarità che un tempo penso che nemmeno venisse considerata, cioè il dado nei libri game era quasi un aspetto fondamentale, c'erano comunque nella serie che ha avuto successo in Italia e in Europa, sì, ma quella americana era diceless, non aveva i dadi. C'era già l'epoca. Scusami Roberto, visto che parlavamo di fantasy, ammazza quanto rompi Carlo. Sì, rompo il cazzo. Poi glielo rompo io. Roberto, per curiosità, fantasy con influenze comiche, ma sì. Pratchett o Allora, ci sono varie citazioni che scusami ho voluto se ti chiedo le fonti certo. ispirazioni, ma no, no, allora Pratchett è chiaramente una delle fonti principali di ispirazione, però diciamo che uno degli esempi che proprio mi sono portato avanti, che ad oggi è proprio uno dei miei film preferiti, è Una pallottola spuntata. Cioè, la comicità che proprio adoro e che ho cercato anche di replicare è quella proprio di Una pallottola spuntata. Quindi basata proprio su il cliché, cioè la presa in giro del cliché, far immaginare al lettore o comunque a chi guarda la storia di dire: ah, ok, adesso sta per succedere questo, e poi quasi storcere il naso dicendo: ma che sto guardando? La comicità di Zucker della parola, esatto. Certo, grande classico della comicità demenziale dell'epoca, vabbè. Anche se per me il mito assoluto di quel periodo rimane Hot Shot, sì. No, non Hot Shot, scusami, Top Secret. No, Top Secret dei... Avete visto voi, immagino, sì. Top Secret, sì. Comunque, beh, Gianni Rodari ti piacerebbe, quindi, se non l'hai letto, ma penso che tu l'abbia letto, immagino. Sì, sì. Perché il concetto è che allora da lì comunque sia il progetto che avevo in mente è rimasto comunque per parecchi anni nel cassetto, perché poi sapevo che non c'era nemmeno modo e stimolo anche a proporlo. Cioè, sono venuto a conoscenza del forum che avevo citato, dove c'erano comunque altri appassionati, e già lì vedevo che c'era comunque del movimento, perché vedevo che si parlavano di nuove uscite, c'erano persone che comunque fremevano, scalpitavano, perché comunque il movimento stava un po' risorgendo, e da lì ho assistito un po' in ritardo alla rinascita dei libri game, e da lì mi è venuta proprio la voglia di riprendere in mano il progetto. Il concetto è proprio che quando ho cominciato proprio a metterci mano, la difficoltà principale era come riuscire a inserirmi nel nuovo risorgimento, perché più passava il tempo e più notavo che sia le tematiche che le meccaniche stavano diventando originali rispetto a un tempo, e allora ho detto: devo cercare comunque di differenziarmi, di fare qualcosa per evitare di essere uno dei tanti. Cioè, che alla fin fine uno dice: c'è una storia comica, c'è una storia fantasy, magari ne avranno messe altre sicuramente. E allora ho deciso: avevo sentito parlare di una casa editrice che pubblicava libri game in digitale, e ho detto: si presta bene, posso sfruttare anche la meccanica digitale per alcune gag, visto che comunque fare a volte giochi di parole oppure usare la quarta parete sfruttando anche il digitale potrebbe essere una buona idea. E allora ho deciso comunque di proporre la storia. La storia è piaciuta molto all'editore, e da lì è nato Questavern. È nato. Ok, quali sono i libri attualmente pubblicati, e soprattutto dove si possono trovare? Allora, i libri pubblicati sono due: sono Questavern Brandy a tutta birra e Questavern Fable una nota stonata. Una nota dolente, perché l'abitudine di sentire Vargion che storpia sempre il titolo che dice una nota stonata, alla fine mi ha plagiato. Esatto. Colpa sua. E poi esatto. Se una cosa ti entra in testa, alla fine poi. Sì. Cioè, alla fine lo stesso autore ha storpiato il proprio nome. Questa, che rappresentano praticamente la stessa storia, però con una sorta di universo alternativo. Cioè, cosa sarebbe successo se al posto di un protagonista ci fosse stato un altro? Vabbè, un what if in pratica. Esatto, un what if. Entrambe le storie possono essere scaricabili sia su App Store che su Android, al costo di €3,49, e offrono all'inizio una demo proprio per permettere al lettore di sperimentare, per vedere se è ciò che fa per lui. Ci sono una cinquantina di paragrafi gratuiti, In tutto i libri Game ne hanno entrambi all'incirca 420, quindi è un'avventura abbastanza longeva. E ruotano tutti, ruotano entrambi su una taverna che ha la caratteristica di non servire cibi o bevande, ma eroi. Quindi immaginatevi queste persone che entrano nella taverna, ho bisogno di qualcuno per compiere una missione, mi faccio servire il menù e sul menù c'è l'orco, il bardo, l'arciera, il cacciatore. Quindi fantasy comunque come mi esatto. E scelgo comunque il personaggio che fa per me. L'ambientazione è di base fantasy, okay. Però ho inserito anche parecchi anacronismi anche per rendere il tutto un po' più eccentrico. Sì, posso dire che è divertente, veramente. Ci sono... è divertente a giocarlo, quindi alla fine. Roberto, fa piacere. Per curiosità, perché è un dubbio che mi è venuto parlando. Diciamo così, l'isolamento da Covid pensi che abbia contribuito al fatto che la gente magari possa essersi più o meno riavvicinata a questo tipo di forma di intrattenimento? Secondo me sì, perché alla fin fine nel periodo di Covid, stando a casa, per molte persone sono andate un po' alla ricerca di qualche hobby, e questo è valso sia dal punto di vista dei lettori e sia anche dal punto di vista degli scrittori. Infatti al giorno d'oggi vediamo non solo tante persone che hanno proprio iniziato a scoprire libri game, ma anche a scriverli loro stessi. Quindi il passaggio da fruitore ad autore. Esatto. Ovviamente da lì nasce anche però un problema, perché per adesso abbiamo fatto tanti elogi alla nuova generazione, però c'è da dire che c'è anche il rovescio della medaglia, perché talvolta il termine libro game viene anche malinteso, e quindi girovagando tipo su Amazon o comunque su internet vediamo dei prodotti definiti libri game che libro game in realtà non sono, o comunque sono fatti molto male. Ah ok, che siano fatti, cioè è difficile dire cos'è o cosa non è libro game, perché non è che c'è proprio una definizione così stretta, sì, così lineare, però dire che è fatto male, quello sono d'accordo, ecco, su quello è più facile definire. Più che altro perché magari mi è capitato proprio di vedere libri game che sì, cioè il termine, se vogliamo dire avventura interattiva, però okay, interattiva che vuol dire? Che io posso fare le mie scelte. Sì. Ma mi trovo magari a che vedere con libri in cui ti dice, faccio esempio ovviamente giusto per il contesto, vai a destra o vai a sinistra? Io dico, va bene, vado a sinistra. Non puoi andare a sinistra, devi andare a destra. Io, ok, vado a destra, puoi andare in alto o in basso? Io, vado in basso, non puoi andare in basso, vai in alto. E allora che scelte posso fare? E questo leggermente guidato, insomma. Sì, cioè nel senso che proprio oppure al contrario c'è proprio un libro di testo, cioè nel senso immaginatevi 100 pagine di testo e in tutto 5-6 scelte interattive, che ci sta, ci mancherebbe, però diciamo che questo poteva un po' più sorprendere nella vecchia generazione. Ad oggi, se uno vede tutti i libri game che esistono, un prodotto del genere passa un po' in sordina, cioè non soddisfa nemmeno tanto il lettore. Va bene. Senti, e dove si trovano? Su Android? Android e anche su iOS. Ah, iOS, giusto, quindi anche Il prezzo ovviamente rimane invariato, sempre €3,49. Io guarda, li sto sbirciando, perché ovviamente da quando poi Leo è ovviamente rappresentati in il mattino allora in podcast, in realtà poi li ho cercati. Devo dire, se posso fare una critica, mi permetto, proprio per spassionatamente. Secondo me cioè, spesso e volentieri, non nel tuo caso, ma questo lo dico in generale, è un argomento al quale sono particolarmente sensibile, manca una lettura d'alto contrasto, cioè nel senso comunque strumenti che aiutano magari persone che hanno delle difficoltà nella lettura, soprattutto su dispositivi relativamente grandi, insomma, come possono essere magari un 6 pollici o via dicendo, no? Quindi sai, diciamo l'ingrandimento, per così dire, più che l'ingrandimento, l'alto contrasto, magari l'inversione, no? Nel senso, sai, se c'è presente il carattere bianco su sfondo nero, no? Ad esempio, perché per esempio l'effetto lavagna, come tante volte, se voi andate a vedere nelle impostazioni di accessibilità nei vari dispositivi, uno dei quello più utilizzato è ovviamente l'inversione dei colori, cioè nel senso che comunque l'alto contrasto su base nera, no? Perché aiuta molto la lettura di determinate situazioni. Secondo me queste sono cose che dovrebbero essere contemplate in ogni strumento che necessita una lettura, perché non tutti poi ovviamente riescono a leggere per troppo tempo su una condizione di sfondo bianco, ad esempio, no? Cioè nel senso, sembra una stupidità. Devo dire che... quella è ovvio. Devo spezzare una lancia in favore di Simone, perché io anni addietro Simone continuava a dirmi questa cosa e io dicevo ma fa niente, invecchiando e diventando vedendoci un pochino meno mi sono reso conto che invece c'aveva ragione. Adesso preferisco di molto la lettura su sfondo nero. Pare strano, chiaro. Ma stanca, no, vero, stanca così, molto di meno, stanca molto di meno, stanca di meno, uno non ci pensa. Oddio, dipende, io ci ho provato, accorge quando... ma tu non devi, tu Puccio, devi contestualizzare, non è che questo vuol dire che vale per tutti. Io dico sempre una persona con dei problemi di visus comunque alla fine comunque si ritrova ad avere dei problemi a fare. Io nel senso conosco persone che hanno tutti i computer tutti su black, su come si chiama, dark mode, no? Perché comunque mode, alla fine è un'altra cosa per chi ha. Ma questo lo dico non è verso Roberto, questo lo dico in generale verso tutti. Se io faccio delle recensioni a determinati prodotti, perché comunque a me i prodotti di narrativa interattiva mi sono sempre interessati, e vedo che non c'ho l'opportunità magari, oppure quelli che usano un testo piccolo e non ci so cazzi, no? Cioè nel senso lo devi tenere in quella maniera lì. Ecco, questa è una cosa che io osservo sempre, faccio come osservazione. Poi ovviamente lo sviluppatore fa quello che ritiene, cioè nel senso non è che deve... No, ma calcola che anche in realtà per scritto, cioè ci sono libri dove il testo è veramente molto molto piccolo, esatto, cioè che io pure strabuzzo gli occhi per leggerlo e non è nemmeno su uno schermo. No, ma io ti dico che ho visto altri storie interattive, altri libri game su Android che non i tuoi, che sono scritti veramente. A parte l'uso del font, allora, cioè, un'opera deve essere accessibile. Cioè, se tu mi fai una scritta piccola e con un font arzigogolato, vaffanculo, ridammi i soldi. Cioè, nel senso. Non la reggo. E infatti, fortunatamente, molte di queste opere hanno, che ne so, il primo capitolo gratis, no? Ad esempio. Sì. Penso che sia anche nel tuo caso, no, Roberto? Se non sbaglio. Sì, come le dicevo, i primi 50 paragrafi all'incirca sono gratuiti. Poi ripeto, non li leggerai tutti e 50, perché chiaramente in un libro game ci sono le scelte. Certo. Però si dà la possibilità comunque al lettore di non fare un acquisto bendato, per esatto, così dire, esatto, alla cieca. Infatti è una cosa pure... Che è anche giusto alla fin fine. No, noi sono d'accordissimo, infatti, perché proprio per questo, questo problema. Perché io leggo... Simone, mi è venuto in mente, c'è un libro che non devi leggere mai a questo punto, però è cartaceo, che è uno di quei pochi libri che non può essere convertito per tutta una serie di motivi in digitale, che si chiama Casa di Foglie di Mark Danieleschi, che cioè, è un po' lovecraftiano, magari ti piacerebbe pure. Però diciamo così, all'interno c'è continui cambi di font, cambiano i colori dei font, che ne so, cambia la dimensione, comincia a scrivere in una pagina per esempio è a forma di spirale, c'è tutta una serie di cose che secondo me se uno non c'ha 10 decimi diventa veramente difficile riuscire a gestire quel libro. Vabbè, però quella, è vero che quella è una scelta book non esiste. Ok, però quella è una scelta artistica. E ha un contesto, ha un senso, no? Ma nel momento in cui tu mi proponi un'opera, ma io dico, cioè pure sul Kindle, quando c'è l'opportunità per esempio, comunque su un libro digitale, se c'è opportunità io inverto subito proprio in automatico. Sì, sì, no, ma mi pare che adesso di default Kindle chieda ogni, cioè Amazon chieda a ogni pubblicazione su Kindle che sia, ci sia la possibilità. Beh, di accesso. È giusto, perché uno in effetti, io mi rendo conto, e per questo non lo dico con, cioè lo dico con serenità, mi rendo conto che chiaramente magari essendo un problema che uno non prende in considerazione, no? E invece certo, nell'inclusività bisogna tenere in considerazione anche queste cose qua, cioè. È un po' come la questione di giochi da tavolo dove magari ci sono degli elementi colorati, che ne sai che uno è daltonico? Hai ragione. Infatti nei videogame oggi prendo ad esempio The Last of Us parte 2 in maniera incredibile, perché ha esteso all'ennesima potenza questa cosa. Ci sono una miriade, cioè tutta una sezione di impostazioni completamente dedicate all'accessibilità, dal daltonismo all'ipovedenza, cioè nel senso ti mette le condizioni anche chi è proprio ipovedente, quindi insomma uno che sta messo abbastanza critico e dice vabbè, ma che fa, giochi ai videogiochi, e perché non c'è diritto di... ma guarda che secondo me è una cosa che ti dà Unreal come possibilità, come motore di sviluppo, perché ho visto tantissimi giochi che hanno questa, sì, adesso è diventata una possibilità, sì, una cosa quasi standard. Adesso è diventata una tendenza, motore di rendering, diciamo che ora è diventata una tendenza questa cosa, però nonostante ci sono tutte le impostazioni per il daltonismo e via dicendo su tutti i giochi oggi, quasi The Last of Us parte 2 ha proprio veramente, cioè uno spettro ancora di impostazioni proprio all'ennesima potenza, una cosa veramente fuori di testa. Addirittura, cioè, tu poi vedi proprio il gioco, cioè, ad altissimo contrasto, cioè tipo vedi le sagome, cioè, nel senso è fatto apposta per ogni tipo di situazione. Comunque non volevo incartarmi su questa questione qua, lo dico sempre perché secondo me chi fa software deve tenere in considerazione un po' tutti gli aspetti, no? Anche questo. Senti Roberto, invece sono curioso di sapere due cose fondamentali. Uno, un po' come si progetta un libro game, e due, se tu sviluppi poi la parte digitale in coding diretto, cioè in programmazione, sì, o se lo fai tramite dei tools particolari, cioè. Allora, calcola che posso fornire, diciamo, un'esperienza su entrambi gli ambiti, perché allora per quanto riguarda le app che ho realizzato, l'editore mi ha fornito una specie di manuale, per così dire, molto molto semplificato, dove appunto bastava utilizzare determinati codici quando magari dovevo offrire una scelta, in modo tale che poi dovevo soltanto poi fornire il file all'editore, lo inseriva in un programma e in automatico veniva convertito come se già lo potessi visualizzare all'interno dell'app. Esempio banale: devo fare la scelta, vai a destra, vai a sinistra, facevo chiocciola scelta, mettevo tra parentesi quadre l'opzione, chiusa parentesi quadra, cancelletto numero del paragrafo. Ok. E da una parte è più semplice, perché comunque sia uno degli aspetti importanti nella realizzazione di un libro game è distanziare i paragrafi, cioè nel senso, se io devo andare destra o sinistra e mi metto vai all'1 o vai al 2, l'occhio anche non volendo mi capita, se c'è magari una delle due strade che mi uccide, te ne accorgi già da subito che alla pagina accanto c'è un paragrafo con scritto la tua avventura termina qui e nell'altro che vai avanti. Mentre se devo farlo in digitale non vedo gli altri paragrafi, quindi posso anche farli appiccicati. Certo. Mentre se devo realizzare qualcosa di cartaceo devo un po' sapere in anticipo la quantità di paragrafi che man mano vado a realizzare, più che altro per non farli tutti vicini. Sì, diciamo che il digitale non ha il problema dell'impaginazione, no? Cioè è comunque il sistema, esatto, che ti manda il paragrafo. Mentre invece il problema, esatto, dell'impaginazione ce l'hai con la cartacea, perché sì, chiaramente... Che non è complicatissimo, cioè basta prenderci la mano e comunque sì, anche lì si risolve, però è una rogna in meno, per così dire. visto che c'erano dei software proprio specifici per fare libri game, proprio anche cartacei, che poi l'impaginazione la facevano in automatico, tu dovevi soltanto creare. Sì, sì, è Libro Game Creator. Bravo, esatto. Sì. Che anche quello è un programma comunque utilizzato per, cioè, il nome per chi quello deve realizzare il cartaceo. Il nome a prova di scemo. Cioè, il nome la dice tutta. Non te puoi sbagliare, insomma. Esatto. A cosa servirà mai questo programma? E tu l'hai provato? Allora, io il Libro Game Creator non ho avuto modo di provarlo, semplicemente perché da PC ci sto poco e non c'è una versione digitale per cellulare. Infatti io, quando ho scritto le mie storie, caricavo tutto su un file su Google Drive, in modo tale che poi in automatico poi inviavo il tutto tramite mail. Okay. Però so che stanno creando delle versioni alternative in digitale, e questo potrebbe comunque far comodo. Ok. Più che altro perché, come me, tante altre persone hanno comunque questa possibilità, che magari non hanno modo di affacciarsi spesso al PC, e quindi potendo stare anche sul cellulare, ho un'idea, mi è venuta la frase che cercavo per concludere un paragrafo. Non devo dire, ora devo ricordarmela finché non torno a casa. La scrivo subito sul cellulare e sta lì. Certo, vabbè, questo è chiaro, certo, certo. E vabbè, quindi quali altre, al di là del tuo sviluppo diretto, dico, quale altro magari tools hai provato, sperimentato, che magari non ti è piaciuto, oppure hai così, anche solo per curiosità, insomma? Sì. Intendi in generale proprio per i libri game? Sì, sì. No, per sì, per la scrittura di storie interattive. Prima allora, diciamo che comunque le meccaniche, ora io magari posso fare riferimento specificatamente sul digitale, però partiamo dal presupposto che, avendo fatto una storia senza dadi, non ho sfruttato tutte le potenzialità del digitale. Certo. Perché lì ci sono proprio delle meccaniche che ti fanno comunque in automatico aggiornare il punteggio di vita, cioè non devi essere più tu a, che ne so, tira il dado, hai perso 3 punti e devi ricordarti di segnarti. Certo. Che a volte magari capita, te lo scordi. O Bari, come facevo. Oppure Bari, esatto. No, non è vero, non l'ho preso. Mentre lì, appunto, sia il lancio del dado sia anche le statistiche vengono gestite in maniera automatica, tramite appunto dei codici che tu appunto imposti, metti lancio dado e sai che in quell'istante viene lanciato un dado. Mm-hmm. E in base all'esito proprio si aggiorna la statistica. Senti, quindi puoi guadagnare punti vita e così via. Certo. Il prossimo progetto invece? Il prossimo progetto invece è cartaceo, quindi solo cartaceo. Ah, interessante. Proprio perché ha una meccanica che ora vi spiego, che avrebbe parecchie difficoltà fatte in maniera digitale. Quindi ho abbandonato tutti i codici, asterischi, apostrofi e cancelletto, per dedicarmi a un'avventura scritta a 4 mani, perché non sono l'unico autore, ma l'ho fatta insieme a Lorenzo Gherardi, che saluto. Ed è un'opera, 2 opere, che verranno rilasciate presso la casa editrice Dracomaca tra aprile e maggio 2022. Tra poco. E sono a tema piratesco. Ok. Il target anche questo giovanile, quindi ragazzi, adolescenti. E oltre alle classiche scelte, vai a destra, a sinistra, io cito sempre quella, ma non è che si va sempre destra o sinistra. Esatto, Marisa. No, perché a furia di citarle, io mi immagino che chi magari non conosce il libro di Grimm si aspetta di vedere. Esatto. Scusi, ma dov'è destra o sinistra? Esatto. Ma qui non mi dice, qui non mi dice destra o sinistra, c'è qualcosa che non funziona. Infatti, sto sbagliando qualcosa, questo libro è rotto. Esatto. Comunque dicevo che, al di là delle classiche scelte, c'è una meccanica basata sul disegno. Ora non so se alcuni di voi conoscono un po' Scribblenauts. No, so. Sì, quello per 3DS. Esatto. Allora, il concetto è che spesso le illustrazioni in un libro game fanno un po' da decoro, cioè sono comunque elementi aggiuntivi. E mi è venuto da pensare, insieme a questo mio amico, di fare in modo tale che le illustrazioni e i disegni avessero uno scopo nell'avventura stessa. Quindi a volte, se tipo devi fare un combattimento, non dovrai lanciare un dado, non dovrai tenere conto di statistiche, ma per fare un esempio, il testo ti dice: stai per affrontare il nemico, disegna un soldato. Tu lo disegni, poi al paragrafo successivo ti dice: se il soldato ha un'arma e uno scudo, hai vinto. Se gli hai fatto solo un'arma senza lo scudo, hai attaccato il nemico ma non ti sei difeso, perdi dei punti. Se invece non hai disegnato un'arma, hai disegnato solo lo scudo, ti difendi ma non attacchi. Se non hai disegnato nulla, perdi. Interessante, interessante. Ah, beh, sì, sono oppure in alternativa, se io ad esempio, che ne so, sono sulla nave pirata, devo capire il mio ruolo sulla scala gerarchica, disegna una scala, la disegni e poi ti dice: in base ai gradini che tu hai disegnato, più gradini, più alto è il tuo ruolo sulla nave. Pochi gradini e sei un mozzo. Bella. Bene, rimani bene. Fregato, tra virgolette. Esatto. Quindi alla fine, quindi quando comprate il libro, fate una scala dei 20 scalini, mi raccomando, ragazzi. Almeno, ecco, almeno 20 scalini dovete disegnare. Vi sta dal e questo cheat, può essere comunque espanso anche in altri aspetti, perché anche la stessa esplorazione, uno magari dice: devo esplorare un'isola. Di solito nel libro game ti dice, che ne so, anche in un villaggio, no? In un villaggio uno ti dice: vuoi andare nella taverna, vuoi andare al mercato, al cimitero, cose di questo tipo. Qui magari hai la mappa vuota, cioè nel senso non c'è nulla, e ti dice: disegna tutti gli elementi che pensi possano esserci in un classico villaggio. Tu magari dai sfogo alla tua fantasia, disegni degli edifici che tu ti immagini, e nel paragrafo successivo c'è una lista di luoghi che veramente ci sono e puoi esplorare tutti quelli che tu hai disegnato. Beh, gli altri, quelli che magari hai disegnato, però, non ci sono, semplicemente non stanno nel villaggio. L'unico problema che vedo è che non è completamente inclusivo, perché chi non sa disegnare, fine. Vabbè, fai un rettangolo e ci scrivi mulino, fai un altro rettangolo e scrivi casa del capo. Cioè, insomma, non è che devi calcola che abbiamo già fatto alcuni playtest e questo poi si può giocare anche nessuno dei playtest fosse ai livelli di Giotto, ma neanche lontanamente Giotto, che cioè, poi abbiamo visto di base, cose veramente che sarebbe proprio da farci la classifica del il peggior migliore disegno. Esatto. Sì, ma c'è il problema di quelli che disegnano una cosa che non capisci cos'è, quindi poi vanno alla pagina dopo. Ah sì, ma io infatti quello ho disegnato, quello. Sì. Esatto, esatto. Beh, questo è come imbrogliare coi dadi, è la stessa cosa. Esatto. E certo, no? Il principio della serie, fai una cosa strana del tipo, che ne so, disegna una scimmia, disegni una specie di aborto in stile gobbo di Notre Dame, e tu puoi sempre dire: oh, per me quella è una scimmia. Esatto, il principio è lo stesso, infatti. Giusto. No, però è carino, come se non altro, secondo me si presta anche per giocare in due una cosa del genere, perché uno magari sì, fa assolutamente il master e l'altro. Noi ci siamo immaginati proprio anche tipo il padre o la madre che gioca insieme al figlio, cioè anche, il padre anche, sì, il genitore che legge e il figlio che disegna. Sì. Oppure due poi amici, quello il disegno quello alla madre che... e la madre se lo appende al frigorifero. Oppure due amici che giocano, quello che disegna e quello che ride, perché ecco, guarda quello che ha disegnato l'altro. Allora, il discorso è che in realtà io avevo tante altre curiosità, però siamo andati veramente, non me l'aspettavo che saremmo andati un po' così coi tempi. C'è solo una domanda che volevo fare, vai, per chiudere, ma da Roberto, chiedi il suo parere, visto che non l'abbiamo accennato, che però rientra più o meno nel genere, sugli interactive movie. cioè questo genere che un po' Netflix ha recentemente, per modo di dire, che è già passato un po' di tempo, rimesso in auge anche con Bandersnatch. Sì, allora calcola che io ho visto tempo fa. Diciamo che interactive movie esistono da 50 anni, eh? Cioè, però, infatti ho detto che recentemente riproposto. Va bene, ok. Ma a parte che diciamo che questi interactive movies stanno a volte anche su YouTube, cioè ci sono anche dei video interattivi, cioè la meccanica in sé è già usata e di base è un'idea parecchio interessante. Ma c'è anche un. Mi sto cercando di ricordarmi il titolo, che c'era in effetti un film interattivo italiano, ma era una cafonata incredibile. Sì, ma c'era, a parte c'era uno della Pirelli che era terribile. Sì, ce ne sono stati. No, che mi ricordo che avevo visto una recensione pure su YouTube, era qualcosa veramente di trash allo stato puro. Ma sì, ma penso che era fatto apposta. Sì, sì, me lo ricordo pure io qualcosa del genere, ma adesso non. Comunque di base è la dimostrazione che comunque l'aspetto interattivo, cioè noi comunque in questa live abbiamo parlato di varie, cioè il libro interattivo, la visual novel interattiva, il film interattivo, dimostrano comunque sia che inserire qualcosa in cui il lettore o lo spettatore si senta protagonista è una cosa che comunque piace. Significa che comunque al giorno d'oggi si cerca sempre di non limitarsi alla persona che magari guarda quel film o legge quel libro in maniera quasi distaccata. E secondo me è una cosa molto carina. Ma perché io... poi mi viene da pensare quale potrebbe essere il prossimo step? Vabbè, giochi. Il prossimo step, come su tutte le cose, poi quelli ci stanno. Pensa a Detroit Become Human, sì, che è bellissimo. Tutte le storie interattive della Quantic Dream o della Telltale, tutti, insomma, alla fine, bene o male, i principi sono quelli. Però pensa, Carlo, che quando ero ragazzino e leggevo il libro game, magari Sherlock Holmes. Ogni volta che leggevo un paragrafo, tu lo sai, io sono sempre stato fissato col cinema, no? Certo. E mi immaginavo sempre di girare tutte le scene di tutti quanti i paragrafi e combinarli in un film interattivo, no? Cioè, nel senso, è sempre stata una cosa più o meno fattibile. La cosa che invece mi interessa, e che poi tratteremo magari in una prossima puntata, che rivedremo ovviamente Roberto, è capire un attimo la struttura nella costruzione del libro game. Purtroppo. Questa è una domanda che in questo momento non posso farti, perché siamo andati veramente molto in là con i tempi e immaginavo che avremmo ovviamente diparato discorsi un po' così, perché siamo fatti così e ci piace così, però mi immaginavo di stare un po' più dentro nei tempi, invece siamo proprio andati bello, che tra l'altro mi è piaciuto moltissimo, quindi poi Roberto, se ci fa il piacere, insomma, magari ritorna. Io sarei felicissimo, eventualmente un domani si può dedicare proprio una live proprio anche per entrare nel dettaglio su come si costruisce un libro game. Quello, esatto, proprio su quello. Che poi peraltro al giorno d'oggi esistono anche vari mezzi proprio per chi è alle prime armi, cioè ci sono proprio dei corsi, c'è un corso a pagamento sulla piattaforma Taboo che mi pare che è finito qualche settimana fa, che dava proprio delle lezioni dove i docenti erano gli stessi autori di libro game italiani con qualche ospite. C'è proprio un libro che si chiama Scrivi la tua avventura di Mauro Longo, dove appunto anche lì spiega, dà consigli su come realizzare un libro game. E poi comunque ci sono i vari social, su Facebook ad esempio, dove ci sono vari appassionati che condividono i loro consigli. Bene, bene, bene, sì, sono assolutamente d'accordo. Allora, poi magari ragazzi, in privato vi manderò, questo magari lo faccio solo a voi, giusto per spaventarvi, la foto degli schemi che io ho realizzato per il libro game. Beh, sì, sì, in realtà sì, ci interessa, poi ovviamente rimane fra noi, poi ne riparleremo in una prossima puntata sicuramente. Allora, ringraziamo Roberto Bucciarelli, che giustamente adesso ci ricorda i suoi due libri game che sono su Android e su iOS, e poi ovviamente ne riparleremo con lui anche quando uscirà, insomma, quello cartaceo fra 3 o 4 mesi, insomma. E intanto ricordiamo, si potrebbe far combaciare proprio la live in quel periodo, esatto. Così prendiamo due piccioni con una fava. Esatto, volentieri. Intanto ricorda i titoli che già sono pubblicati. Sì, sono Questavern, Brandy a tutta birra e Fable, una nota dolente, su Android o iOS, ma anche soltanto digitando Questavern si escono subito. Questavern, perfetto. Ok, esatto. Ragazzi, sono divertenti, veramente noi li stiamo giocando, e anzi ne approfitto per ricordare che domani mattina dalle 7 alle 8 Leo Vargion, ovviamente nel mattino loro in podcast, finiamo probabilmente appunto la Questavern, quello dell'elfa, insomma, che lui ha scelto. Che eravamo rimasti con il Gollum messicano. Esatto, Smigel. Smigel, sì, ho riso Smigel, perché poi in realtà mi veniva in mente. Hai riso troppo. Più Smigel che Smigel, capito? Cioè, perché ovviamente ricordava proprio il tizio. E certo, Smigel. Smigel è stato fighissimo. E invece vi ricordo che giovedì dalle ore ovviamente 7 alle 8 ci sono sempre io con Buongiorno un cazzo, lo so, è una trasmissione un po' riottosa, insomma, però d'altronde io ogni tanto vi sveglio in malo modo, ma la sera alle 21:30 sempre di giovedì c'è, cioè Quando eravamo futuro con lo speciale di Natale, e poi ovviamente il 25 saremo live dalle 10:30 alle 12:30 prima di andare a pranzo, insomma, e farci compagnia, gli auguri di Natale e vedere come vi è andata la sera della vigilia, e il 31 a sera dalle 22:30 in poi circa, insomma, siamo sempre in live per fare il Capodanno insieme a voi. Tutto il resto della programmazione la conoscete già, io ne approfitto per ringraziare Carlo, spero che sia stata una puntata che tu abbia gradito. Sì, assolutamente, spero anche che ovviamente i miei no siano serviti a dare qualche informazione in più, come al solito. E la puntata l'ho trovata estremamente interessante per quello che di cui abbiamo discusso, e probabilmente attenderò con ansia anche la prossima, dove si parlerà di struttura, programmazione, struttura. Sì, ok, ringrazio, e ovviamente ricordiamo di archeologia informatica, che domani registrate, giusto? Un episodio, se non sbaglio. Spero. Non dipende solo da me. Comunque giovedì ci sentiamo tutti per Quando eravamo futuri. Ok, così ci facciamo gli auguri. Vi ricordo, archeologia informatica la trovate anche su YouTube. Andate, cercatelo, iscrivetevi, attivate la campanella, seguite ovviamente che è il canale di archeologia informatica, che pubblica poco, magari rispetto a tanti altri, ma pubblica roba di qualità. Noi facciamo il cinema della storia del computer, proprio ci piace proprio fare il cinematografo a noi, quindi sono cose proprio fatte in una certa determinata maniera, cesellate, esatto. E ringrazio e saluto ancora Roberto Bucciarelli, ci ha fatto veramente piacere. Grazie, io saluto anche voi e ringrazio dell'opportunità. E ragazzi, per quanto riguarda Ludico Forum è tutto, ci vediamo nel 2022. Lo salutiamo. Ah, Carlo, sì, Carlo, Carmine, scusa, Carmine. Carmine, no, Puccio. Cioè, ma lui poi sta lì, non dice niente, capito? Dice, a me non mi saluti. Carmine Puccio Consol. Saluto in privato. Esatto. No, volevo dire che per l'Unico Forum per quest'anno è tutto. Ci rivediamo nel 2022, chiaramente, e insomma con altre idee, altre progettazioni. E poi, come abbiamo detto, torneremo a parlare anche di narrativa interattiva e libri game anche con Roberto. Quindi grazie a tutti, ciao, e ci vediamo giovedì per Quando eravamo futuro. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.